ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Cornuto. No, non ho detto gioia. Vai maestro. Eccomi qui, formi formidable. Vi impedirò di aver un governo stabile. Ma per gli affari miei, sapete, sono molto abile. Poi mancava soltanto una cosa per capire le tendenze che c'erano in questo Festival di Sanremo. Guardi, dal conduttore alla conduttrice, alle forze armate russe che si sono presentate là, bastava solo che mettessero una bella falce, un martello e poi capivamo tutto. Guardate, ho promesso di rendervi e poi ancora vi offro di più un'evasione. Io sono venuto per vedere un festival della canzone italiana, invece me ne sono accorto che stavo vedendo una tribuna politica. Però Crozza poi ha imitato anche Bersani, Ingroia, non era solo contro Berlusconi. Ma guardi, intanto li ha fatti dopo, ma indipendentemente prima o dopo, secondo me, è il Festival di Sanremo, quindi anche se parlava prima negativamente di un altro politico, avrebbe comunque sbagliato ugualmente. È probabile. Che son cavaliere, ma per certe cose son ricattabile. Ma sono sempre qui. Quindi insomma non si è preoccupato invece per questa imitazione che ha fatto Crozza, la contestazione del festival. Sapeva già che nei confronti della sinistra e poi non francamente no, io ho già criticato abbastanza il fatto che Sanremo sia stato fatto ora in piena campagna elettorale e quindi ho già detto quello che dovevo dire. Ma l'hai sentito Parenzo, i contestatori di Crozza dicono che è un festival praticamente falce e martello. Il signor Munafò, Letterio Munafò. E che ti ha fatto di male? Letterio Munafò. Perché non si può contestare? Letterio Munafò. Vuoi impedire Munafò. Le contestazioni? Tu che sei democratico Munafò. Vuoi impedire le contestazioni? Allora signor Munafò, 65 anni, ex consigliere del PDL. E allora? Vicepresidente della squadra di calcio del Lecce. E allora? Munafò! E allora? Munafò! E allora? Munafò! Ma... Basta! Ma per... Basta! Ma qual è il nome? Munafò, c'è il nome, mi sta sui coglioni. Munafò! Ma perché? Che ti ha fatto? Munafò! Ma scusa, aspetta, calmati che sei già esagitato. Sei esagitato. Qual è il problema? Uno non può andare dentro e contestare? Munafò. Uno non può andare dentro e contestare? Hanno organizzato un agguato. No, questo lo dice Magalli. Ma è evidente. Lo dice Magalli, che dice addirittura, ha sostenuto oggi durante una trasmissione della RAI, il signor Magalli, che sono stati trovati degli assegni, addirittura a firma di Spinelli. Ecco, il ragioniere, quello che faceva gli assegni. Ma già c'è una minaccia di querela da parte dell'avvocato Ghedini. Ma è ovvio, Ghedini, ovvio, appena sente la parola Berlusconi, querela subito. Comunque, ma che vuole? È uno spettacolo, è uno show. Abbiamo tempo per parlare di tutto. Non sposta mica voti, Grosso. Berlusconi versus Giannino, ormai è diventato un classico di questa campagna elettorale. Inizia Berlusconi dicendo che Giannino è andato fuori di testa. Perfino Oscar Giannino però preferirebbe Ambrosoli a Maroni in Lombardia. Oscar Giannino è andato fuori di testa perché era un liberale convinto, ho letto il suo programma, tutti i suoi punti sono compresi nel nostro più ampio programma e adesso addirittura ha dichiarato che il suo fine è quello di far perdere Maroni in Lombardia. E quindi si vede che la campagna elettorale... Per certe cose sono ricattabile. Senti la risposta di Giannino. L'errore di Maroni, come Salvini sa, dal mio punto di vista, perché con Maroni ho avuto un rapporto e ho un rapporto personale, io l'ho incoraggiato a farla finita con Berlusconi, che dal mio punto di vista è, non ha niente a che vedere con i valori liberali, con un mondo di politica digeribile, è un guitto che ha perso legittimamente credibilità di fronte al mondo, legittimamente dal punto di vista che gli ha elevata questa credibilità, e da questo punto di vista... Un guitto senza credibilità, mentre Berlusconi dice che è andato fuori di testa. È inutile che ti chiedo da che parte stai, naturalmente, Parenzo, è totalmente inutile. E devo dire che Giannino viene attaccato anche dall'onorevole Leone sul colore della giacca. Signor Leone dice... è stato, è vicepresidente della Camera, signor Leone, no? Sì, signor Leone che dice è un liberale un po' colorato, e Giannino si incazza. Appena lo tocchi con una cosa personale si incazza come una bestia. Ma sì, perché appunto giocare sui... Ma ho capito, però è in politica pure Giannino, sì, io gli voglio bene, lo abbraccio. Non è un argomento. È in politica, ma uno non è un argomento. Ma che vuol dire? Ma si deve abituare a quello che è il confronto, sì, all'arena politica. Ma l'unica cosa che questi sanno dire è che è matto, che è un istrione. Contestassero le sue idee. Che i gatti puzzano. Che gli... beh, quello, guarda. La giacca. Era proprio questo che volevo dire in risposta al colorato Giannino. Io non lo conosco personalmente. Ha colorato il pif. Ma piantatela lì di dire, ma che sono colorato. È anche simpatico. Berlusconi è un fuoco d'artificio quotidiano. Io ce l'ho le donne tutti adesso, i giorni. È tanto colorato come un clown. Ma guardate, ho promesso di... Altro attacco a Giannino da parte di Mucchetti, candidato del Partito Democratico in Lombardia, che dice: facevi il tifo per Berlusconi e per Tremonti. Sentite. Fino all'altro ieri Oscar Giannino faceva il tifo sui giornali dove scriveva per Berlusconi e per Tremonti, punto. Quindi non è un fatto personale. No, poi ha cambiato idea e io dico Massimo, benvenuto ben fra i critici, però e ha diritto di farlo. Però ma che cosa dici, Massimo? Ancora culo entro. Eccoci qui la Zanzara 800240024, abbiamo ancora tanta carne al fuoco. Prima di un ospite vi voglio però far ascoltare un grillo che a Radio 105 dice: beh, corriamo un rischio, se facciamo il botto diventiamo come Scilipoti. Senti. Ma sono sempre qui. Ci sono persone che sono arrivate a due mandati e scalpitano perché vogliono fare carriera. Nel movimento non c'è carriera, sono due mandati e poi si ritorna a fare quello che si faceva prima. È molto semplice. Poi gli scilipoti, la scilipotizzazione dell'animo umano esisterà anche nel movimento, non siamo mica perfetti. Beh, inizia ad andare in televisione, alla radio, Sir Grillo, Vasca, Beh, no, anche alla radio, 105 no? C'era andato anche in precedenza. Inizia a fare come c'era tutti gli altri politici, come sì, gli ma altri può politici. Che... Ma che c'entra? Va trattato come un politico, non più come un comico ormai, ma no? Siamo qui con Daniela Santanchè, buonasera, candidata in Lombardia per il PDL, come sta? Buonasera, bene, voi? Miau! Non c'è male, ha visto Sanremo oppure ha visto la Juventus come ha fatto Berlusconi? Così non sento perché ero disturbata da rumori strani. Sì, no, è il gatto che ha aggredito Sallusti. Ma lei ha mai conosciuto i gatti di Giannino adesso? Scusi? Ha mai conosciuto i gatti di Giannino? No, una volta che ero andato a trovarla libera avevo conosciuto un gatto, però io devo dire che amo più i cani, mi sembrano molto più fedeli. Ma è davvero pericoloso? Era davvero pericoloso no, questo gatto di Giannino? Guardi, no, non lo so, non mi sono mai occupata del gatto di Giannino, con tutta onestà. Risponda al telefono, che magari è Sallusti, risponda. Ma perché deve essere sempre Sallusti? No, il telefono che ma tu spilla. Sei malato, sei ossessionato. No, io devo. Tu è ossessionato. Ogni volta a me, sì, quando facciamo le riunioni. Un po' di invidia forse. No, ma prima di invitarla, ogni volta che chiediamo su Sallusti, ma io no, non. Ma perché devi chiedere? Ma è invidioso. Ma di invidia perché... lo dico. Molti piccoli uomini. Io amo la Santanchè. Ma non è vero, ma quando mai? Hai detto ti stai inventando una cosa. No, scusi, ma quanto era berlusconiano? Sì, Giannino. Giannino. Ma io ho fatto un confronto televisivo pochi giorni fa dove ho detto semplicemente, ma non mi sembrava di dover offendere né Giannino né nessuno, che io avevo pensato che Giannino fosse il ghostwriter di Tremonti, era un grande supporter di Berlusconi, ha lavorato per Caltagirone, era a Radio 24 Confindustria, quindi è un uomo che appartiene a un sistema e ne ha determinato un sistema. Poi non ma che sistema, cosa scusi, che vuol dire sistema? No, voglio dire che non è che è un vergine, non vedo Giannino vergine. Beh, ma lui non è si presenta mai. scusi? No, lui non è che si presenta come vergine, cioè... No, ma adesso che dice che insomma tutto Tremonti fa schifo, Berlusconi fa schifo. Ecco, ma quanto era berlusconiano? Lui ci racconti, lei che conosce moltissimo, bene. Moltissimo, moltissimo, moltissimo. Tremontiano nella maniera proprio più viscerale che si potesse essere. Di ferro, cioè era molto berlusconiano più di lei addirittura, viscerale. Più di lei berlusconiano, non credo. Beh, forse non so lei... se si possono fare paragoni, sicuramente più tremontiano di quanto io lo sia mai stato. Beh, poi è uno dei delusi, no? Sant'Anché, si è dopo dal 94 a oggi, Berlusconi ci racconta la stessa minestra, a un certo punto Gelino ha detto sono 20 anni che questo... politica quando c'è molta ambizione, molto personalismo, poi sa, lo vedremo, gli italiani quanto voteranno. Ma è vero che frequentava, perché lui ha detto io non ho mai frequentato la casa della Sant'Anché, ma in realtà poi è venuto spesso a casa sua, no, Giannino? Ma guarda, io siccome non ho nulla da rimangiare, da rinnegare, con Giannino c'è stato un momento in cui anche si lavorava insieme, lo vedevo, credo, se non tutti i giorni, due o tre volte alla settimana, siamo usciti a cena insieme, era assolutamente una persona che le dico per perché... me, un giornalista autorevole, economico. No, perché lui dice, io non sono mai stato del Giro Sant'Anché, come dire, il Giro Sant'Anché è un'altra cosa, io non ho mai appartenuto a questo, quasi schifando questa roba qua, no? Ma sa, io non lo so se schifo o non schifo, è un problema suo, io non schifo nessuno, però non credo, non possa dire che non ci siamo mai frequentati, questo sarebbe profondamente sbagliato. Ma il problema è più loro, un po', tremate un po' all'idea che Giannino hanno paura di Giannino in Lombardia possa Ma guardi, io dico assolutamente no, nel senso che io non posso criticare i contenuti di Giannino perché sono i nostri stessi. Io quello che dico è che la campagna elettorale non è una testimonianza, e dico a tutti gli italiani che, voglio dire, il voto a Giannino è un voto che non serve assolutamente niente, perché ma la cosa più assurda è che Giannino dice Berlusconi non è riuscito a far niente con quella maggioranza bulgara che aveva. Si figuri cosa potrà riuscire a fare Giannino, che non prenderà l'1%. Comunque siamo certi che non supererà lo sbarramento, non è detto, né alla Camera. Non è detto. Questo glielo scrivo oggi, che giorno è oggi, se vuole prendersi febbraio. E tanto meno al Senato, per cui vorrei sapere tutto quello che dice, come potrà attuarlo, che non avrà nessuna rappresentanza nelle istituzioni, che non potrà legiferare, che non potrà fare un tubo. Ma è più nuovo Giannino di voi, però. Questo è un voto sprecato, mi dica lei. Sprecato, è più nuovo, ma è più nuovo Giannino di voi, che dal 94 promettete le stesse cose senza mai realizzarle, e la riduzione delle aliquote, e l'abolizione dell'IRAP, e portare mia nonna ai giardinetti. Parenzo deve studiare un po', perché vede, non è che lo dice la Sant'Anché, che lei potrebbe dire che dal 94 dite le stesse cose dal 94. Ma l'università di Siena, no, quella è una balla, quella è una balla, quella roba lì è una balla. È una balla, sì, è una balla, perché l'università di Siena ha detto che l'80% del programma Berlusconi è stato attuato. No, lei si sbaglia su questo, perché nessuno lo fa notare a Berlusconi. In realtà l'università di Siena che cosa ha fatto? Ha preso in considerazione i progetti di legge presentati, non quelli approvati, che sono effettivamente legge. Come no, guardi, avete detto bene, non avete detto No, vada a leggere. Luca Ricolfi sulla stampa. Luca Ricolfi sulla stampa ha esattamente dimostrato. Cioè, uno può presentare pure tutti i progetti di legge di tutto il programma, dopodiché poi non sono stati approvati. Lei può dire quello che vuole. Cioè, gli italiani che ci stanno ascoltando hanno una certezza. Vabbè, questo bisogna vedere. Che stava meglio con il governo Berlusconi, che si erano messe meno, cioè mai. Cioè, si stava meglio quando si stava peggio, dice lei. Si stava meglio quando si stava peggio. Non c'era, e 4 miliardi di italiani per la prima casa, che per noi sacra, non avevano dovuto tirarli fuori. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me. Voglio chiedere subito, onorevole Sant'Anché, ma ha visto quella quella donna che adesso dice di essere imbarazzata dopo quegli apprezzamenti di Berlusconi l'altro giorno? Ma insomma, dica qualcosa anche lei, insomma, come avrebbe reagito come avrebbe reagito di fronte a quella? Molto semplice, continuate così, sa qual è la differenza? Bunga bunga e loro banca banca. Vabbè, questa non è vecchia. Questa è vecchia. Questa è vecchia, questa è vecchia. Ma magari i suoi chi è che l'ha detta? Chi è che l'ha detta questa bunga bunga banca banca? L'ho sentita l'altra volta. Ma è una cosa assolutamente molto però vera. Scusi un attimo, lei come avrebbe risposto? Sempre. È una cosa che riguarda le donne. Come avrebbe risposto lei a... Ma guardi, io rispondo con i fatti. No, ma perché vedete che voi vi riempite la bocca. Ma sta facendo il giro del mondo quel video. No, ma voglio dire, io sto dalle parti delle donne veramente. E appunto oggi hanno fatto uscire uscire dal carcere Juncker, che ha ucciso una donna con 32 coltellate, non ha fatto nemmeno 10 anni di galera. Juncker, a Milano, la città dove io abito, ogni due giorni c'è uno stupro, se ne fotte di un complimento. Ma noi donne i complimenti ci piacciono, non lo trovo che sia una vittima. Ma è un complimento quello? Ma è un complimento dire quante volte uno viene? Ma voi uomini, ma guardi, anche lei avrà fatto sicuramente di peggio nei confronti delle donne, perché siete tutti maschilisti. Adesso non fate anche voi i vergini che vi scandalizzate. No, io non mi sto scandalizzando. Ma pubblico... Lorenzo con me, cosa dovrei farlo? Denunciarlo? Ma che io allora, le cose che mi dici. Ma scusa, non è che uno dice quante volte è venuto, scusa, non ho mai detto... Ma io non mi sono mai permesso... Ma la trasmissione che fate voi è tutta su doppi sensi, ma parezza... Ma che c'è, ma noi facciamo la trasmissione... Ma io faccio il giornalista, non il candidato come premier. Come faccio l'amore, come non lo faccio. Ma siamo gente normale. Ma noi facciamo i giornalisti. Ma io faccio domande, a parte che non le chiedo quante volte fa l'amore. Perché delle vittime. Se lo vuole dire. Sì, ma non preoccupatemi delle vittime che voi volete fare. Allora, Berlusconi è stato un maleducato, sì o no? È stato un maleducato, sì o no? No, non è stato per niente maleducato. Ma non è stato per niente maleducato. Ah, uno che dice quante volte viene una persona non è stato maleducato. Quante volte viene nell'azienda per vendere. Ma quale azienda? Ma io non lo so, ma passiamo, parliamo di temi veri, parliamo dei 4 miliardi che dobbiamo ridare agli italiani. Lei la capisce quella signora quando ha risposto che ha risposto di essere imbarazzata, sì o no? La capisce o no? Ma che quella signora era imbarazzata, bastava vederla nel video, era bella, sorridente e gongolante, perché fanno tutti i fenomeni dopo. Quando c'è lì Berlusconi, sono lì che c'è il problema di Berlusconi. Cioè, le piaceva il complimento, ci sono tante donne che, scusi, abbia pazienza, si mettono nelle braccia di Berlusconi. Ah, a me indignano queste donne, non questi uomini, non perché io sia contro le femministe, ma diamoci noi le colpe. Ma quanti madri di ragazze che le spingono nel letto degli altri, quante donne sono lì con le tette di fuori e con le cose che quante ce ne sono davanti a Berlusconi? Quante ce ne questo sono? Questo mi fa schifo, schifo le donne che fanno così, le posso dire, voi uomini siete delle vittime. Ma lei si immagina Bersani o Prodi fare una battuta simile a una donna? Guardi, non lo Bersani so che fanno, non mi interessa, mi fanno schifo quelle donne che vengono da voi. Voi siete due uomini famosi, no? Quante donne verranno da voi nessuna, a buttarvi tra le vostre braccia? Ma non si butta nessuno. Se io faccio un maschio, quelle donne lì proprio le rigetto. Ma ho capito, quindi adesso il problema sono le donne. Qui è Berlusconi che ha fatto una battuta. Sì, guardi, il problema glielo dice una donna che credo di aver fatto tante battaglie. Sono gli uomini, allora Berlusconi è un problema. Diciamo questo, non dobbiamo sempre dare la colpa a voi maschi. La colpa è di noi donne, dunque, perché guarda, io non credo in cosa ha sbagliato quella signora. Che faceva quella signora? Cosa... Io non credo di essere proprio un mostro, no? Sì. Però una donna normale. Una bella donna, no? Io dico. Non si permettono gli uomini, perché una donna per farsi dire certe cose vuol dire che si mette nella condizione di farsele dire. Dunque, quella... Io ho sofferto da ragazza quando avevo 16, 17, 18 anni, che avevo le mie amiche che mi raccontavano questo mi corteggia, quello mi invita a cena, quello mi ama. Io soffrivo perché dicevo, cavolo, ma mai nessuno mi invita, mai nessuno. Perché mi lei che cosa avrebbe fatto? Avrebbe risposto perché con io avevo un atteggiamento altro, perché faccio capire che non sono disponibile. E dunque quella... non sono disponibile. E dunque quella le donne imparino a far capire che non sono disponibile. Ma lei era disponibile, quella no, signora capito. Ha fatto capire di essere disponibile allora, evidentemente. Parlo sempre. Sì, ma l'ha visto quel filmato o no? L'ha visto quel filmato o no? Quella donna mi sembrava assolutamente a suo agio, perché una donna che non è a suo agio ha sia come atteggiamento del corpo, come gestualità, sia con le parole. Sì, perché se a me uno fa una cosa ma che non va bene, gli do un bel ceffone, ma non arrivo neanche al ceffone, perché con me una persona non si permette. Ma magari era imbarazzata, no? Quando non sei lì. Non si permette, ma sei imbarazzata, ma qua fanno tutti i fenomeni dopo. Quando sono dopo? Con Berlusconi, vedo scene di donne con Berlusconi che rimango male di appartenere a quel ma magari era imbarazzata, dunque, perché in quel contesto. Voi maschi, dunque, se una donna, siete se una donna, vittime. Se una donna può, siete delle se una donna siete porta dei poveretti. Se, no, poveretti, adesso siamo poveretti. No, siete un po' poveretti, perché voi quando vedete una donna non capite più un tubo. E qual è il problema che c'entra? Mica io dico una, però quante volte viene? Abbia pazienza. Io non lo so lei cosa le dice. Ma glielo dico, ma io glielo posso dire, perché non sono mica Berlusconi che si candida a governare il paese, abbia pazienza. Non mi interessa, una questione di cultura, che le donne devono imparare a non essere disponibili. E dunque quella signora allora lì ha mostrato di essere disponibile, ho capito. Che se non gli va bene una cosa, sì, ma lei sta dicendo, non la fanno fare, perché con me nessun uomo si permette. Quindi quella signora ha dato l'impressione di essere disponibile, questo è, vabbè. Scusi? No, quella signora evidentemente ha dato l'impressione. Ma voi non è che parli italiano, io parlo italiano. No, ma parla italiano. Non ho bisogno di essere tradotta, credo di essere molto chiara. Scusi, dunque, se una donna porta la gonna corta, viene stuprata, è colpa sua? Guardi, no, la gonna corta va benissimo, il tacco a spillo va benissimo, va tutto benissimo, sì. Cos'è che va malissimo? Cos'è che va quando male? Una donna si brubutta nelle braccia di un uomo. Ma in questo caso non si è buttato nessuno? Non si è buttata da nessuna parte quella signora, si è trovata in mezzo a una ghechina di un signore di 76 anni. È vero che ci ha ripensato dopo, sì o no? Ci ha ripensato o no? Ci ha ripensato, sì o no dopo? Ma non mi interessa se ci ha ripensato dopo, all'inizio... ci doveva pensare subito. Punto. Ma magari era in imbarazzo. E credo di essere stata chiara. Ma che imbarazzo, imbarazzo! Ma lei dovrebbe stare un po' con Berlusconi. Era in imbarazzo. Certe scene di ragazze giovani che, ripeto, mi vergogno di essere donna, e dico a voi maschi che siete delle vittime. Vittime, sa, la carne è debole. Su un palco davanti a centinaia di persone in imbarazzo di un uomo di 76 anni che fa delle battute, vengo non vengo, quante volte la signora non aveva imbarazzo. Girati. Perché allora o noi diciamo che la signora era non capace di intendere di volere, quindi non è stata capace avere delle no, poverina un corno. Poverina niente. No, no, io sono dalla parte di quella signora, vittima in un contesto con tutti gli occhi puntati sul suo sedere. Vergogna! Se ti mette una telecamera nelle mutande, faremo 18.000 trasmissioni denunciandoti per i tuoi comportamenti con gli occhi del pubblico puntati sul sedere di quella povera signora. Basta! Che stufo quando guardi le donne, ma piantala. Berlusconi, la magistratura manda in malora l'Italia. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Guardi, è saltato completamente un normale rapporto tra i poteri dello Stato. Siamo di fronte ad un potere, quello della magistratura, che sta letteralmente mandando in malora l'Italia. Cioè si sta realizzando nei fatti quella che è stata l'interpretazione giacobina del modo fiat giustizia e per il mondo, cioè si faccia giustizia per il mondo. Ma la risentiamo quella su Giannino che è fuori di testa? Risentiamo almeno l'inizio, fatemi sentire l'inizio. Giannino è fuori di testa. Perfino Oscar Giannino però preferirebbe Ambrosoli a Maroni in Lombardia. Oscar Giannino è andato fuori di testa perché era un liberale convinto. Ho letto il suo... Ma scusa, ma la citazione latina dell'ex premier, ma su cosa? Fiat Justitia, falla risentire. No, che no, voglio sentire questa cosa qua, gli ospedali. Pereat mundus. Gli ospedali per compensare le marachelle nel momento del giudizio, questa è bella, eh? Appunto una fondazione nel nome di mio padre per costruire 4-5 ospedali per bambini all'anno in giro per il mondo, e la motivazione la posso anche dire. Io ho commesso, pur non avendo tradito mai amici, idee, cioè, ma qualche marachella l'ho commessa. Allora pensavo, se vado su al momento del giudizio e ho le marachelle da una parte, ma c'ho una cinquantina di ospedali dall'altra... Insomma, riparo alle mie marachelle costruendo ospedali. 800 24 00 24. Vedi San Raffaele. Perché Casini insiste su questa cosa dei gay? Perché Casini insiste così tanto? Poi perché utilizza queste parole fastidiose, violenza, una volta ha detto incivile? Io queste parole proprio non le sopporto, violenza. I matrimoni gay, la parificazione dei matrimoni gay è violenza. Ma perché violenza? Allora altri paesi dove si fa? In questo momento la Francia da poco è stato approvato il matrimonio, certo. La Gran Bretagna, sono violenti, sì o no? Sono violenti, Casini, sono violenti! La parificazione del matrimonio tra gay è una, secondo me, una violenza che francamente ritengo che tantissime persone che vivono la loro omosessualità con serenità. Ma che c'è da dire su Sanremo? C'è da dire qualcosa? È vero che ha visto un sacco di gente Sanremo, ma c'è da aggiungere qualcosa rispetto alle buffonate di critiche su Crozza? A me Crozza non è piaciuto per niente, te lo dico. No, molto divertente. Di basso livello rispetto. Molto divertente. Ma che divertente? Rispetto divertente. È bravissimo, è il numero uno, è il top. Molto divertente. Dopodiché, ieri, come hanno scritto moltissimi, almeno molte persone di cui mi fido, perché io l'ho visto così, insomma, non tutto. Spizzichi e bocconi. Esatto. È stato secondo me non è il suo ambiente, non è il suo ambiente. È un grande show, molto divertente, bella la canzoncina che ha fatto, bello il suo ingresso in scena, insomma, spettacolo straordinario. Grandi ascolti, vedremo la curva, vedremo che ha fatto una punta sicuro di grandi ascolti. Ma in fondo il festival della canzone è quella roba lì, non è la canzone. Maroni si difende su Film Meccanico, fammi sentire questo, una cosa seria. Maroni che si difende su Film Meccanico. Ho detto ad Orsi che lo sosteniamo perché è bravo, non perché è della Lega. Io devo dire una cosa, c'è una responsabilità politica in chi ha nominato i manager, non c'è dubbio. Però in Film Meccanica, e nei prossimi giorni vi farò nomi e cognomi, in Film Meccanica ci hanno messo le mani tutti i partiti, tranne pochi ovviamente, i radicali tra questi e altri ancora, però tutti i partiti hanno messo le mani dentro Film Meccanica. Quasi tutti. Questo non significa che l'azienda era mal gestita, questo significa che quando hanno potuto hanno messo persone, hanno assunto gente, nomi e cognomi, anche parenti. C'è un parente per esempio di Franco Marini, come mai? Pare che ci sia un parente di Veltroni, Franco, come mai? Marini, tutti assunti, per la loro bravura, magari saranno bravissimi. Certo, qualche aiutino magari l'avranno avuto o no? Certo, l'avranno avuto o no? Qualche è un'azienda aiutino. Che è stata gestita, allora, dalla politica. Anche la Lega ha messo manager, gente al consiglio d'amministrazione. Questo è dimostrato. Come gli altri. Manager come nominati gli altri, dalla Lega ci sono come, stati. Ma certo, questo si sa. Non è che se Orsi ruba e non è provato, no, non è che se Orsi ruba è colpa della Lega. Cioè, non può essere colpa della Lega, no? Se Orsi poi, a meno che non sia provato, ma non è provata questa tangente data la Lega, ma mi sembra da questo punto di vista l'inchiesta ancora un po' fumosa. Che dobbiamo sentire? Maroni. Il Fatto Quotidiano, che so che ha annunciato che ha querelato, esatto, ha pubblicato un'intercettazione in cui Orsi la ringrazia della nomina in certo. Meccanica. Lei come fa a negare di non aver avuto un ruolo se un amministratore delegato? Io non ho negato nulla. Io conosco Orsi da tempo, era l'amministratore delegato della più importante azienda della mia provincia. Tutti lo conoscono e tutti lo conoscevano e tutti lo stimano. Nell'intercettazione fatta al ministro dell'Interno, tra parentesi, noi ti abbiamo sostenuto, poi la nomina l'ha fatta il governo, ma noi ti abbiamo sostenuto non perché sei della Lega, perché non me ne frega niente, ma perché sei bravo. Liana da Firenze, poi Patrizia da Roma. Liana? Sì? Dica. Buonasera, io devo parlare, io vi seguo e vi apprezzo, mi fate anche divertire, stasera però con la Santanchè veramente l'avete fatto inferocire, non voi, naturalmente, la signora Santanchè. Mi sembra che stia un po' perdendo. Ma perché? Che ha detto? Mi dica che ha detto, che poi devo dare la pubblicità. Mi dica che ha detto. Sulla signora che è stata così volgarmente trattata da Berlusconi, lei l'ha giudicata come se fosse disponibile a qualsiasi approccio. Sì. No, non ha detto questo. Ha detto si è resa disponibile ad essere. Sì, ho senza capito, capire certo, che la signora era in una evidente posizione di debolezza, perché era in una fabbrica per la quale lei lavora e c'erano tutti questi signori, non so sì. se imprenditori o che cosa, che applaudivano freneticamente. Ma questi sono quelli che dovrebbero rimettere in piedi l'Italia? Grazie Liana, voglio fare sentire prima della pubblicità Magalli, rivelazioni clamorose, pare ci sia un'azione giudiziaria da parte degli avvocati di Berlusconi. Magalli, mandatemi Magalli. Fazio apre con Va Pensiero. Mi sembra e diciamo che gli ascolti sono troppo stati troppo generale questa cosa. Sanremo Contessa, due erano, Sì, diciamo la verità, gli hanno pure trovato gli assegni dei Spinelli in tasca. La contestazione, ma anche se erano gli stessi due di Celentano, ma anche se non fosse organizzata, sempre la contestazione di pochissime persone. Infatti, però non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Non mi moleste moschito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Ma chiamate tutti sulla Santanchè. Sì, è vero, ha difeso Berlusconi per quella frase che ha detto alla signora. E qual è il problema? Qual è il problema? Ma perché si indigna? Perché si indigna per questa cosa piccolina? Perché si indigna per questa cosa piccolina? Come se uno non conoscesse Berlusconi, che fa le battute a sfondo sessuale. Ho capito, ma non è che se uno dice una stronzata per forza bisogna dargli ragione. Ma no, ma nessuno dice questo. Ma nessuno dice. Che c'è? Che è successo? Scusa. Eccolo, scusa. Marco Pannella è con noi. Buonasera. Buonasera, dimmi. Precisavo, sì, precisa. Quelle di Silvio, sì, sulle donne sono, come tu dici, a sfondo, sì, ma di impotenza sessuale. Cioè, che senso, impotenza? Dico che quel tipo di battute sulle, sì, donne, dimostrano? È tipico dell'impotente che vorrebbe. Ah, cioè, non gli funziona, ma tu dici che è una leggenda questa roba qua, che lui invece si è fatto le operazioni. Io dico, ma no, io queste cose non me ne fotte nulla, figure. Dico. No, dico che sono le tipiche battute, sì, maschiliste e via dicendo. Di chi di poi quello, invece? Di quello che c'è il problema, di, guarda che mascone che sono io, là, là, è tutto qua, insomma. È vero, ogni tanto è così. Ma con Silvio, figurati. Ma sai che ci sono leggende su lo Berlusconi che si è fatto. Guarda, ecco, l'unico. E Villolina, il coso, lo sai? No, sì, ma voglio dire. Vabbè, si dice, non è che puoi estraniarti dal mondo della comunicazione. Cioè, anche questo si dice. Parlare sempre dei Falun Gong, allora. No, volevo invitarti, sì, a parlare di Falun Gong, a capire essere, qualcosa. No, essere un tantino più preciso, dice la leggenda. Ma che ci stanno le leggende su le leggende? Sono cose importanti, hai capito? A Berlusconi cose dovrebbe... Queste sono cose che capitano sempre, sono l'opposto leggenda. Sono l'attualità che si consuma, sì, al 100% mano a mano che passa. Ma comunque a te di queste cose di Berlusconi che te frega, in fin dei conti, delle frasi, o sbaglio? È quello che ti sto dicendo. Voi discutete la leggenda del Silvio, ma poro Silvio, voglio dire, mamma Rosa sicuramente capiva quello che ha capito pure Veronica, cioè ha capito che insomma l'età non gli stava bene, insomma aumentava la libido. La voglia, ma nemmeno la voglia, la libido frustrata, quindi, la libido frustrata, e quindi certo è un frustrato sessualmente, come la Santanchè, capito? E lei è il volto femminile, di il volto sta con Sallusti, sta con Sallusti adesso, bella coppia, faranno qualcosa, no? Immagino, non è questo che... non mi hai fatto capire. Ma no, per dire, cioè, no, per dire, cazzi loro. Vabbè, sì, no, detto l'unico alla Pannella, problema è una cosa certa, che abbiamo saputo, sì, che questa tremenda, sì, Santanchè dura e via dicendo, poi alla fine c'è una bellissima casa, molto bella, l'imprenditrice, sì, sono andato pure io una volta, fra l'imprenditrice molto agiata. Ma anche tu c'è una casa bellissima via della Panetteria, che vuol dire? Una casa stupenda, me la ricordo con la cosa. Ma non dire l'indirizzo di dove sta Pannella. Ma lo sanno, scusa, tutti, via della Panetteria. Ma figurati. Posto meraviglioso, la gente, casa aperta, la casa, la gente poi arriva, gli suona. L'unico, dai, problema è che anche tu sapevi che non c'avevo l'ascensore al sesto, vero, piano. È vero, sesto piano. Che pioveva in casa, vabbè, effettivamente, e che non c'era il riscaldamento finché centrale. C'è stata una donna, funzionava tutto, poi a un certo punto è andato tutto in disfacimento. No, vedi, sbagli, a partire dal momento in cui quella mi ha costretto a mettere il telefono, mi ha costretto a non far piovere l'acqua in casa, eccetera, quindi la cosa è l'opposto. 800 24 00 24, mi mandate per favore qualche insulto che ci ha riservato Pannella l'ultima volta, quando si stava per alleare con Storace, l'abbiamo chiamato. Ah sì, certo. Beh, bisogna rimetterlo per forza. Ma com'è finita poi quella vicenda là? Perché non vi siete più alleati con Storace? Ma lo sai benissimo, cerca di fare persone serie e raccontalo. No, che racconto? Non voglio raccontare più niente. Dovete fare le provocazioni per dire, ma invece no, la cosa lo sai com'è. Per una questione tecnica, sì, vabbè, no, d'accordo. Sapete, la questione è semplice. A un certo punto, in questo cazzo di regime sul quale credo non che siete dubbio, d'accordo, no, sì, regime, a un certo punto, non come magari, come dici, viene tu, però, una notizia, devo dire un po' scandalosa, sì, che Zingaretti, sì, e questi... A un certo punto vogliono far fuori i consiglieri regionali vostri. Sto dicendo, sì, vabbè, io vado al sodo. La sintesi, siamo, vai al sodo. Siamo brachilogici noi, Marco. Perché lui è un altro che può andare al sodo. Brachilogici, brachissimi, siamo brevi, brachilogici. Allora sto anch'io, scusa, come Berlusconi, anch'io ho una fissazione dicendo, là. Scusa, perdonami. Allora, perdonami. Allora sto dicendo che da questo punto di vista è chiaro che, sì, a un certo punto Zingaretti, sì, questi che a un certo punto, sì, dicono perché questa è la tesi ufficiale. Sì. Poi c'è Ambrosola che dice la stessa cosa in un altro modo. Perché Ambrosola? Perché la chiami Ambrosola? Perché è una sola. È una sola, solo che a Milano non sanno... Ma perché non vi vuole più nessuno? Questi non PD, sa... perché non questo vogliono problema. Più? Questo è il punto. Perché nessuno. Non... No, nessuno. Il PD, perché questi del PD non vogliono? No, non ci vuole nessuno della partitocrazia. D'accordo, ma perché in particolare Perché nella strada loro possono constatare che le loro basi... Sì, loro? Le loro basi PD, comuniste, cattoliche, in realtà si riconoscono nella nostra storia. Ho capito, però... Non vi votano, però questo è il problema. Per me è un dramma, per me. Per me è un dramma. Però, scusami Marco, io voglio dire una cosa. Loro questo e PD, non amnistia, giustizia, libertà. In cosa si è trasformato sto PD? No, il problema è che forse sbagliate quando ogni tanto non lasciate il tempo di dare un'informazione. No, ma qual è l'informazione? Scusami. L'informazione, dico che cosa succede. Sì. Il PD, per ordine obbedienti di Pierluigi Bersani, fa l'ambrosolata a Milano... perché loro sono tutti firmigoniani, tutti quanti su, eccetera. Bene. E qui a Roma la fa più grossa. Zingaretti, che ha sempre tentato di essere una brava persona in politica, insomma. Tentato. Ha tentato. Beh, già una cosa. E a un certo punto dice, noi siamo costretti dalla nostra base dei militanti, eccetera, a non ricandidare nessuno dei consiglieri regionali nostri, perché la nostra base, quello che ha saputo, come tutti, dai consiglieri, i due consiglieri, Radicali, Rosso Divide, consiglieri regionali, tutti coinvolti, insomma. Da questi, a un certo punto ci impongono di non candidare. A questo punto dicono, noi vogliamo andare in coalizione, glielo chiediamo, no? E lui ha una condizione. Che non candidate quelli là. Ha una condizione che, siccome quelli là sono responsabili di aver fatto conoscere perfino la loro base, la verità, non gli è per... E come è nella tradizione comunista togliattiana, eccetera, che cosa ti fanno? Che fanno? Fanno, dicono, vogliamo fare pulizia. Sì. Loro, storicamente... Ma hanno candidato quelli in Parlamento, però. Quelli storicamente. Storicamente fanno polizia, sono regimi polizieschi quelli comunisti, loro. Vabbè, alla fine e non il presidente della Repubblica non se ne accorga, l'ottimo Giorgio Napolitano dovrebbe occupare di queste beghe qua, dovrebbe fare il garante della legalità, un comunista di estrazione, se non vogliono candidare, non è che può fare il garante, anche se volesse, lui è bravo nel far finta di esserlo, Napolitano. Ma non ma che voto dai a Napolitano in questo, alla fine di questo settennato, sta avvicinando alla fine, che voto gli dai a Napolitano? Voto percentuale? No, voto, da 1 a 10. Sì, il voto, no, da 1 a 100. Beh, da 1 a 100, che ne so, 10. Meno, gli do meno 1. Meno 1? Addirittura? Sì, su 1 a 100. Su 1 a 100 meno 1? Certo, appunto. Ma addirittura, che ha fatto? Che cosa ha colpi fatto? Colpi di Stato? Ma come, con Monti dice colpo di Stato? Ma come no, con la Costituzione italiana. Un golpista praticamente. Sì, ma l'impeachment non è che fa il golpe. No, con i carri armati. Lo sa fare, però, capito? Voi radicali siete già sbagliati con Leone. Non facciamo un secondo caso Leone, Pannella, con Leone come Napolitano, no. Allora guardate, chiedo agli ascoltatori. È stato il peggiore presidente della Repubblica. Per lui sì, è uno dei peggiori. Chiedo agli ascoltatori di tenere presente una cosa, che domani è il compleanno di questo stronzetto che sta baccagliando. Come fai a saperlo? È informato, perché figurati, quanti sigari fumi? Dunque, no, dicevo, quindi fa 37 anni questo bravo ragazzino, quest'altro a naso, a mio avviso, ne fa o 10 o 11 di più. Bravissimo, ma tutti noi sei grande, Marco. Ma ci conosciamo piuttosto bene, allora dico, lui compie tecnicamente un attentato quotidiano contro... Vabbè, queste sono le teorie vostre, l'attentato alla Costituzione quotidiano. Se mi consenti, le nostre teorie sono le uniche che resistono nel tempo. Io ti voglio bene, ma ormai per me sono tutte puttanate queste qua, non so perché il golpe quotidiano, l'attentato alla Costituzione quotidiano, no, per carità, va benissimo, però sono ormai... Hai capito, lui è cresciuto alla scuola di Radio Radicale. Vabbè, però passiamo alle cose serie. Tu, se dovessi votare tra Storace e Zingaretti, chi sceglieresti? Dove fossi costretto a scegliere tra Storace e Zingaretti, chi sceglieresti? Io vedrei in quel momento cosa stanno facendo o l'uno o l'altro. Vabbè, però più o meno tra i due chi sceglie? No, no, non lo sai. Io sempre da laico, sì, da laico, non è che do dei voti ideologici. D'accordo, in un bravo, certo sì, momento giusto, può esserci un fascista che si comporta democraticamente. È un può, comunista? Può succedere. È un comunista? Il comunista fascista. Non può esistere un comunista che si comporti invece democraticamente. Ah, perché, nella i fascisti sono recuperabili, storia. I comunisti no. Sì, hanno delle contraddizioni, anche perché c'hanno una cosa, l'antifascismo fascista. Aspetta, l'antifascismo quello della partitocrazia, fascista, sì, giusto, fascista, sì. Ha tentato di avere no, comportamenti fascisti contro i sospetti fascisti. Beh, questa però è complicata, Marco. Devi no, è semplice, parli è vero, troppo ragione, complicato. Ma ragione, parli troppo complicato. Ma come mai ti sei involuto così tanto no, nel tempo? Ti sei involuto, è drammatica questa cosa. Lui qua. Parla sempre del fascismo, degli antifascisti. Sì, ma è una cosa di un'involuzione. Ma no, ma è semplicissimo. Ti sei involuto, purtroppo, hai capito? Cioè, c'hai la tua età, per carità, sei lucidissimo, io firmerei. Dov'è che posso ma firmare? Mandalo arrivare a quel paese. Dov'è che posso firmare per arrivare alla tua età? Posso firmare domani mattina. Però una domanda, Crosetto dice di fumare 150 sigarette al giorno, tu quanti sigari fumi al giorno? Chi è che fuma? Crosetto, 150 al giorno, andato in ospedale. L'ha ricoverato pure. Andato in ospedale per 150 sigarette al giorno. Poveretto. Ho capito, andato in ospedale. Tu quanti... Ma la differenza fra me e lui... Che tu c'hai il fisico, lui no. La differenza fra me e lui, che non so per quale motivo. Sai. Se io non fumo come lui, moro subito. Lui fuma come se stesso e rischia di morire, quindi è stronzo lui, non io, abbi pazienza. Cioè, se tu non fumi e muori. Tu sei stronzo perché stai a dire una cosa che smentisci nel comportamento. No, capito. Sai che le nostre stronzo, teorie. Vabbè, adesso lascia perdere questa polemica che ho fatto. No, tu sei stronzo, hai ragione. Vabbè, sono stronzo, però scusami una cosa, tu quanti sigari fumi? Quanti sigari fumi? Oh, cazzi miei, guardate, mo stiamo a discutere. Sì, quante sigarette fai? Non me ne frega niente, manco agli altri. Una, quindi, una al giorno me la faccio. Buciardo, malavia. Una. Un tempo te ne facevi pure 10 al giorno. Bellissimo. Ma adesso ormai sei proprio cadente, non lo vedi? Avanti. Ma quanti ma vi pare, se arriva qua e dobbiamo entrare usare nel questo clima, certo, nel clima italiano, nel quale... Quello che fa nella privata, come scopa, quanta la fare, l'altra, mandate, abbiate pazienza. Ma è la politica anche questa? No, la politica, sai qual è? Ma anche per te è sempre stata sai questa. Sai qual è la politica? Il corpo, sai usa qual corpo. È la politica? Quale? Allora, devo spiegartelo, no. E gli ascoltatori ci saranno grati. La gente grati. È interessata a sapere perché se tu non fumi muori. Perché se non fumi muori? La gente è interessata anche a questo. La gente non è stronza sì. Come un 48enne diventa 47, anticipato. 47. Sì. In modo di... Allora, no. Perché no? Ma allora decido io di cosa parlare, abbi pazienza. Sì. Quanti, sì, esattamente, quanti sigari fumi? Cazzi miei. No, oh, dai, su. Quanti sigari fumi, Marco, dai, dimmelo. No, torno a dire. Oddio. Sprecare. Ma il due tempo secondi, che avete ma le elimini sì. In due secondi con la gente che vi ascolta, ma la gente ascolta, ma vuole sapere questo anche questo anche questo ma appunto questo lo vuoi sapere, capito, lo volevi poi sapere. Ti chiedo una cosa di Cosentino che invece è molto interessante, però dimmi questa cosa del sigaro. No, io dico quello che voglio dire. Se per no, me. Io domando quello che voglio domandare. Ecco, tu domandi e io rispondo allora, come voglio rispondere. Perché se non fumi muori? Questo è uno spot a favore del fumo pazzesco. Cioè, ti dovrebbero darti quasi delle sanzioni. Dunque, a me interessa informare la ma gente. No, ma a me, roba, a ma me hai interessa, radio radicale per quello. Hai radio ma radicale. Interessa informare no. La gente di questo fatto. Questa storia Storace, Zingaretti e via dicendo, Marco, però mi fai... Nasce in questo modo. Nasce, non mi interno, nasce, adesso questo non lo voglio nasce, sapere. Che tu non lo voglio sapere, le puoi alzare a fare pipì un momentino. Ma conduco io. Sì, è diversa la cosa, conduco sì. Io. Sei il conductor, certo. È il conducatore, ma sì. Io padrone assoluto non ti ho di questo eletto, luogo. Io non ti ho a padrone di questo luogo. Telefono subito al capoccia di licenza. Ma Squinzi, chiami Squinzi. È come dici? Chiami Squinzi, chiami allora, la Confindustria. Dimmi una cosa. Beh, certo. Dove con tutto quello dove che dici contro la Confindustria. No, no, voglio dire, guarda che caso. Squinzi aveva l'appoggio di tutti gli enti di sì. Stato e di parastato anche, sì, sì. Tranne uno. Qual è? La Finmeccanica e adesso alla Finmeccanica almeno a loro gli stanno a fare un culo così cioè perché sono dei che è lui che manovra tutto. Non è lui ma che se Orsi aveva chiamato Squinzi per mettere non la cosa a tacere dice... poi non è successo niente. Non sto dicendo che lui manovra. Lui semmai è stato fortunato dice il risultato di una scelta dell'ambiente industriale italiano, che sì. È quello anche IRI e via dicendo, addirittura contro la posizione della sola Finmeccanica. Sì. Adesso può darsi che I fatti hanno dimostrato che la Finmeccanica non ha appoggiato Squinzi perché Squinzi non era ai suoi occhi abbastanza sozzo. Quindi è un bravo allora, uomo pulito, un bravo presidente. Voglio dire, tanto quello si sa che Maroni, il ministro degli interni Maroni, voleva... Beh, la partitocrazia era questa, l'ho detto prima, la partitocrazia, controllavano tutto, sì, tutti. Però guarda, state riuscendo a non dare una informazione... No, maestro Zingaretti, parliamo, tu mi devi dire una cosa, quanti sigari fumi? Dimmi solamente quanti sigari, di tutto, quanti sigari fumi? Torno, ho detto, sigari miei, non capisci, cazzi miei? Certo. Sigari miei, quasi. No. Mica allora, stato, io ritengo che sia un modo di dissipare il tempo degli ascoltatori e della radio. Vabbè, comunque fuma 40 sigarette al giorno e due pacchetti di sigari, così mi ha detto. Toscanello alla grappa, così mi hai detto. 40 sigarette al giorno e due pacchetti di Toscanello. Domani fai il tuo compleanno, ti ho fatto gli auguri. No, grazie, Marco. Il problema è che il tuo compleanno è praticamente la metà dei miei anni, ma tu sei già più cotto di me, tutto qua. Succede, no? Ho ricordato solo quanti sigari. Senti, ma dove siete andati a pranzo? Ti ho spiegato allora una cosa diversa. Tu hai detto due pacchetti di Toscanelli, no? No. I Toscanelli stanno per pacchetto 5, ti ho detto 50, e tu allora 50 vuol dire 10 pacchetti, ma siccome non capisci un cazzo, sei una zanzara. Se uno vuole, io ti voglio bene, ma anch'io, ma 50 io mi devo stare attento. Ma come fai 50 Toscanelli al giorno? Scusa, io devo stare attento, ma stai male, poi, siccome sei una zanzara. Ma perché ti voglio bene? A non fare così, perché se no ogni due minuti la zanzara la faccio fuori. Ma come fai con 50 Toscanelli al giorno? Ma ti fa male. Vi rendete conto di che te? Cosa vogliono questi, ritenendo così di essere brillanti? Ma no, brillanti. Che ma voi che ci state ascoltando sappiate questo. La verità è che ti vogliamo bene, vabbè, Marco. Sei la nostra vita, perché ti vogliamo bene, perché senza radicali il mondo è più triste, l'Italia è meno democratica. Figurati se io mo do la soddisfazione a questi di farvi dire una cosa che a voi non ve ne fotte proprio niente. Ma chi l'ha detto? No? Vabbè, con Cosentino, dove ti sei incontrato in un ristorante, sei andato a pranzo con Cosentino, giusto? No, ma perché? Non posso parlare di Cosentino adesso. Io ritengo che gli ascoltatori... Ma tu non puoi decidere di cosa parlare, cioè è una cosa pazzesca. Ma no, ma uno fa le domande, sei peggio di Berlusconi. Sono invitato qui, cioè Berlusconi sono invitato qui per essere intervistato. Certo, le domande le facciamo noi però. Tu fai la domanda e io rispondo come cazzo mi pare. Anche di un altro argomento. Ma voi siete abituati invece a fare le domande e quello che intervistate come uno stronzo risponda alle vostre domande stronzo. Tu dici, è una domanda stronzo, non rispondo, punto. E passiamo ad altro. Però decidiamo sempre noi. Dico agli ascoltatori, gliel'ho detto già 10 volte quello, no? Ma perché dobbiamo io non ti rispondo perché per gli ascoltatori. No, ma è vero, la domanda è diversa. È vero palle, che vuoi candidare Cosentino alle elezioni europee? Palle. No, è non vero è vero, punto e basta. Allora sei contento adesso? Ma no, interessante per sapere. Ma chi gliene fotte qualcosa? Può essere una grande battaglia radicale candidare Cosentino. Allora, alle la domanda precisa allora, su Zingaretti è questa: è vero che ha truffato lo Stato con la storia dei rimborsi sia dei contributi, sì o no? Domanda molto secca: è vero che ha truffato lo Stato, sì o no? Guarda, abbiamo fatto una conferenza stampa oggi. D'accordo, per ma però dimmelo tu: è vero che secondo te ha truffato lo Stato, sì o no? È vero tutto quello che ufficialmente per iscritto gli addebitiamo. Cioè? Se avete voglia, è una cosa complessa e seria. Allora niente, se è complessa, e quindi andatevi tutti quanti a vedere sui siti radicali o a Radio Radicale e saprete la verità. Che per abitudine, è un imbroglione secondo te, sì o no? Per abitudine, hanno imbrogliato su questa cosa dei rimborsi? Ma peggio, hanno fottuto, sono ladri di verità, ladri di quattrini come tutta la partitocrazia. Ah, cioè c'è un ladro. Anche Zingaretti un ladro di quattrini secondo te? È un ladro. È ladro di verità, ladro di professione partitocratica, infatti. Ma anche di quattrini hai detto? Beh, cioè, come no? Ma lo no, ma per dire. Ma chi avrebbe rubato, scusa? Ma guarda, mo viene fuori questo e scopre l'acqua calda. Ma no, vabbè, ma chi avrebbe l'acqua calda? Eravate d'accordo. Ha fatto querela, Eravate d'accordo. Però Marco, eravate d'accordo nel dire proprio un momento fa che su queste cose noi le affermiamo e abbiamo e diciamo cose che la base del PD vi dà ragione, che la base del PD perché è la verità. Dunque, sulla storia dei rimborsi, sulla storia, scusa, dei contributi, deve essere dimostrato, dei contributi, eccetera, tu dici che è un ladro di quattrini, oltre che di verità, Zingaretti. Io giusto? Dico che loro sì. sono un sistema. Hai detto anche Zingaretti, hai detto. Sono appunto loro sono sì, loro. Tecnicamente. Sì. Un'associazione per delinquere. No, questo non si può dire. La partitocrazia è compreso Zingaretti su questa vicenda. E su queste tu che Zingaretti ma in pratica che hanno fatto? Hanno attribuito, hanno fatto una finta assunzione, hanno fatto Marco, abbi pazienza. Per capire. Hanno fatto una finta assunzione, questa è la vostra cosa. Questo deve essere dimostrato dalla magistratura. Però secondo voi è una finta assunzione quella di Zingaretti? Cioè, allora, piuttosto stare a sentire questi che cui non gli interessa un cazzo. Ma no, non mi interessa niente, i dettagli, di nulla di quello che vi importa. Voi. Ma che ne sai tu? Tenete, lo so. Di quello che interessa a loro. No, ma non lo ma sai. Io voglio solo dirti gli ascoltatori? Che... Sì, non guarda, lo sai. Gli ascoltatori quando ci sentono, sì. succede poi che se c'è un referendum, sì. no, noi abbiamo il 90%, con noi il 90% che sappiamo quello che gli interessa a loro. Abbiamo un minuto però, dobbiamo risolvere questa questione di Casini. Di Casini. Casini. Sì, Casini che insiste sui gay. Perché allora, insiste? Perché insiste? Allora vi suggerisco di sentire Radio Radicale. Ma non... sì. E vi suggerisco di andare a vedere radicali.it per comunicarvi marchetta, questo sì. che noi abbiamo detto a Zingaretti. Sì. Sì. Per carità, denunciaci per diffamazione subito. Fatto, perché infatti. Subito lui l'ha annunciata, non l'ha fatta ancora. Vabbè, adesso la farà. Allora, ecco, noi gli abbiamo detto: a noi ci fa piacere ecco. perché nel momento in cui tu fai questo, sì. immediatamente vi mettete sì. nella condizione del calunniatore perché vabbè. Ci ha attribuito un reato sì, e quindi succederà a lui. Quello che è successo adesso al nostro Firmigoni del... sì, vabbè, che è oggi gli è contestata l'associazione per delinquere. Ma questi alla fine sono peggio del PDL, questi aveva... sono peggio del PDL, questi del PD, secondo te alla fine sono la stessa provati. Sono la stessa razza. La stessa razza. Grazie Marco Pannella. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Eccoci qui, la Zanzara, 800240024. Cos'è che stavate mandando prima? Un insulto che ci ha dato non so chi, rimandatelo. Cornuto. Ah, ecco, cornuto. Enrico dalla provincia di Treviso, buonasera, 800240024. Che c'è? Pannella ancora in giro? Che palle, oh. E che palle ogni volta, ma, oh. Ma che c'è? Cucù cosa? Non è un ma cucù cosa, dai. Ma non è un porto di mare ma questo. Ma non è un porto di mare. Da, vieni qua un attimo, un secondo. Velocemente, velocemente. Un giudizio vieni, veloce. Sì, un giudizio veloce ma su tutti i... Se io vengo, vengo al ritmo mio. Una... Ma che ritmo tuo? Vieni un attimo qua. Vieni un attimo. Vuole fare il Führer, la guida. Ma io sono il Führer, sono il Führer alla guida, qua, qua. Sono il fiore alla guida e tu devi stare ai miei tempi. Il tuo padrone e parliamo. Ma già mi hai creato un problema. No, e parliamo della Finmeccanica. No, dai. Dai, dimmi la verità. Bye. Ciao Marco. Ci vediamo presto, eh? Sì, presto. Non fumare così tanto, basta. Non fumare così basta. Tanto. Perché questo gran figlio bravo? Sì. Siccome ho detto, se vieni io qua, smetto, vieni qua un attimo. Vieni se qua. Io smetto, moro subito. Sì. E lui mi dice: non fumare, mi raccomando. No, va bene, allora fuma, fuma, vivi, avanti. Fuma, Pannella, fuma, amnistia, giustizia, libertà, www.radicali.it. Marco, io ti amo. Vedete che quando impazzisce diventa ragionevole. Succede. Bye bye. Ciao, amnistia, ciao. Giustizia, ciao, libertà, fu. Lista cocoscioni. Non li ho disturbati. Ma chi era? Non ci danno una mano, non chiedono alla gente di non sprecare il voto. Hanno paura! Noi non saremmo andati a regalare un voto a questi miserabili! Hanno riso sul fatto, per farvi capire... che queste robe ci riusciremo a levarli dai polsi delle famiglie e delle imprese. Allora io ho detto... Sì, ma me lo fate finire un attimo questo audio, per favore, così sentiamo tutto Giannino, eh? Non me lo interrompete a metà. Berlusconi ha detto, Finmeccanica, se vuoi vendere in paesi dove non c'è democrazia, certi comportamenti sono necessari. Hanno riso sul fatto, per farvi capire... che queste robe ci riusciremo a levarli dai polsi delle famiglie e delle imprese. Allora io ho detto, ma è come Gandhi, no? Come Gandhi? Anche Gandhi ha cominciato da solo. E poi a un certo punto Mahatma Gandhi ha detto, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, ma poi vinci. Allora, un noto giornalista di un gruppo editoriale indipendente dalla politica ha scritto, si è montato la testa, crede di essere Gandhi solo perché è pelato. La mia risposta, ma ci vediamo più tardi, è un'altra. No, io non sono Gandhi. Ma soprattutto Berlusconi non è l'impero britannico, è Bisanzio! Zanzara! C'è una zanzara tigre. Eccoci qui, 800 24 0024, Lucia da Padova, buonasera. A Padova, ottimo. Buonasera. Dica. Posso? Volevo chiedervi come mai non avete ricordato l'onorevole Santanchè Sì, ho capito già. Comunque diceva, di quando diceva che per Berlusconi le donne dovevano essere viste solamente in via orizzontale. Ha ragione, Lucia. Io faccio il mea culpa. Il punto fondamentale è che ha ragione Lucia. Sì, un attimo. Ha ragione Lucia. No. Intervista in ginocchio. Hai fatto un'intervista in ginocchio. Un attimo. Ma come? Munafò? Sì, sono io. Eccoci, Cruciani, Parenzo, Radio 24. Ciao, Munafò. Scusi? La Zanzara, Radio 24, come sta? Parenzo, ciao. Bene, sto. Allora, come si permette? In che senso? Una stronzata, come al solito. detto sobriamente, Munafò, Parenzo, Radio 24. Lei è il contestatore di Crozza, no? No, io sono uno dei. Uno dei. Bravo, complimenti. Un eroe. Secondo Parenzo lei ha fatto una stronzata. Vabbè, ma questa è la sua idea. Chi è questo che parla, che dice che ho fatto una stronzata? Parenzo. Allora, intanto mettiamo a posto le cose. Sono Parenzo. Aiutante del signor Cruciani alla Zanzara, lei, caro Munafò, 65enne, ex consigliere del PDL, qual è il problema? Una stronzata. Ma perché? Detto con rispetto. Ma perché? Che ha Munafò, fatto? Munafò, con rispetto. Munafò, intanto lei probabilmente non sa che io sono stato assessore del Partito Socialista, non per il PDL. Quindi io a questo punto di queste situazioni non ne voglio nemmeno più parlare. Quindi vi chiudo il telefono. No, un attimo, signor Munafò, scusi. No, signor Munafò, io mi scuso per il comportamento di Parenzo. Mi scuso profondamente per il comportamento di Parenzo. Accetti le mie scuse, signor Munafò. Accetti le mie scuse. Non si può affrontare un'intervista che noi avevamo concordato in questo modo, come ha fatto Parenzo. Dunque, stai zitto un attimo, se no mi fai arrabbiare veramente. Non puoi aggredire le persone così al telefono subito, dicendo che è stata una stronzata quella che ha fatto, perché il signore ha tutto il diritto di contestare dove e quando vuole. E non è un problema se è stato consigliere comunale del PDL. No, le dica che sono stato anche assessore del PSI per 6 anni. Ma lei, guardi, deve andare a fare un po' altri mestieri. Io mi inchino di fronte a tanta nomenclatura. No, scusi, non si inchini per nulla. Ma io mi inchino. Diciamo la verità. Così vi chiudo il telefono. No, è lui. Deve andare anche a fare in culo. Glielo dico io direttamente, il signor Parenzo, quando fa così. No, glielo dico io. Guardi, glielo dico io. Allora, diciamo solo una cosa, signor Munafò. Qualcuno ha detto oggi, in particolare Magalli, in una trasmissione, che voi avete addirittura degli assegni di Spinelli, del ragioniere Spinelli. Ha sentito questa storia che circola? Assegni? Sì, pare di sì. Chi è Spinelli? È il ragioniere, quello molto amico di Berlusconi, il ragioniere di Berlusconi, diciamo. Ma lei chissà che cosa sta dicendo, io non conosco nessuno a livello di queste persone, francamente non intendo neanche continuare ad andare avanti, perché lei sta dicendo delle cose che proprio non stanno né in cielo. No, ma non l'ho detto io. No, Giancarlo Magalli. E io lo querelo. E lo quereli, gli hanno trovato. Allora, Giancarlo Magalli, sul contestatore di Sanremo, ha detto: ma sicuramente non si tratta di Munafò. No, non ha detto i nomi, ha detto: gli hanno trovato pure l'assegno di Spinelli in tasca. Ma solo dice: guardi, io vengo a Sanremo con mia moglie a vedermi il festival, vengo per conto mio. Sì. Non conosco nessuno di quelli che hanno fatto la contestazione, dico nessuno. Cioè, non era concordata la contestazione. Ma scusi, ma lei sta scherzando? E che ne so io? È una domanda questa, Munafò. Sì, ma io gli rispondo, gli dico: scusi, ma lei per contestare in maniera organizzata, intanto io non conosco nessuno di quelli che hanno parlato. Io conosco solo me stesso, perché eravamo in quattro, seduti tranquilli con la mia famiglia. Quando è sceso Crozza, che vabbè, Berlusconi lo può fare in maniera magari meno elegante di lui, però ha preso i soldi, li ha buttati sul pubblico, dicendo: questi sono i soldi che sono rimasti a Berlusconi dei terremotati dell'Aquila, e quindi sono soldi vuoti. Ecco, io lì francamente le dico, è stata una cosa proprio spontanea. Di contestarlo, perché ma una cosa a cui proprio la gente parla, ma non sanno. Cioè, ma lei si è alzato e che cosa ha detto a Crozza? No, io mi sono alzato e gli ho detto che secondo me al Festival di Sanremo bisogna ascoltare le canzoni e non fare tribuna politica. Vabbè, non è che gliel'ha detto così come lo sta dicendo adesso. No, a me. Gliel'ho detto proprio così. Ma vergogna, avrei detto vergogna, vattene, no, vai via. No, ho detto no, vattene, vai via, sì, perché quando una parte del pubblico ha detto andate via, io ho ripetuto, secondo me deve andare via Cross, basta, finito lì. Però poi ha fatto le imitazioni anche degli altri, anche di Ingroia, anche di Bersani, ha preso per il culo anche gli altri. Guardi, ma io ti dico una cosa, a me il fatto che lui faccia una trasmissione in un festival politica che va contro uno contro l'altro, francamente, probabilmente, anzi, sono più che sicuro, se lui avesse fatto un gesto nei confronti di un altro politico, probabilmente avrei avuto la stessa reazione. Quello no, lei, scusi, però non bisogna nascondersi, lei è stato consigliere comunale del PDL. Ma io sono stato assessore socialista, assessore per 10 anni. Mamma mia, ma io mi inchino. Mi inchino di fronte a tanta nomenclatura. L'assessore socialista che va a Sanremo, paga il biglietto e fischia Crozza. Vabbè, perché non può il nostro liberale Munafò. Ma guardi, la smetta di dire queste stupidate, ma lo faccia veramente. Fate le interviste in serie. No, scusi, ma dottor Munafò. Lei, guardi, ha tutto il diritto, quello io, guardi, l'ho detto sin dall'inizio, lei ha tutto il diritto di pagare il biglietto e di contestare Crozza. Ma scusi, ma io... O no? Mi compro il biglietto vado a vedere il festival. Esatto. Io nella vita, è 44 anni che lavoro, che faccio l'imprenditore, sono un agente di assicurazioni, sono il presidente degli agenti di Carige Assicurazioni. Quindi, perché guardi che io probabilmente dico a questo signore che fa, io vengo dalla povertà, vuoi capire? Vabbè, ma chi c'entra? Ma non è che se uno viene dalla povertà può dire stronzate al festival di Sanremo, urlare, fare una gazzarra. Ma le stronzate le dici tu. Hai voluto che finisse così. Adesso lo richiamo perché non mi butta traffico, il telefono. Si butta il telefono. Ma sì, ma tu hai detto per due volte che dice stronzate. Si discute. Io tecnicamente posso contestare dal liberale che ha detto una stronzata. Ma uno può prendere il biglietto e poi contestare, utilizzare questo biglietto per contestare. Qual è il problema? Beh, adesso mi volete richiamare Munafò, per favore. Intanto Flavia Vento ci è venuta a trovare qui in studio a Roma. Per alzare il livello. Siamo conosciuti. Alziamo il livello con Flavia. Ho quasi Vento. Paura di questo incontro. No, che alziamo paura, noi il livello, non mordiamo. Alziamo poi il quando livello. Uno è qua, noi siamo tendenzialmente più buoni. Al telefono siamo un po' più cattivi, come lui ha fatto prima con Munafò. Fatemi scudare il suo telefono. Munafò? Abbassato. Abbassa anche perché non si vuole confrontare. Ma no, ma scusa, ma io. Ma ha il diritto, no, uno di pagare a Sanremo e di contestare, signor Vento? Ovviamente sì. No, dunque, signor Munafò ha fatto bene. Diciamo la verità, lei che è la guardiana del castello. Ma anzi, castello? Ma smettila. È il castello dove abita. Ma esiste questo studiare. Castello oppure un semplice appartamento? Certo che esiste, sta via della Saggezza numero 7. Ma, infatti... ma non esiste via della Saggezza? Certo che esiste. Esiste a Roma una via della Saggezza? Ma certo, no, a casa mia. Vento, su, ma lei si fa di psicofarmaci? No, no, io già. Io l'ho detto, uso molto fantasia. E la fantasia e l'immaginazione sono la prima cosa. Mi dica la sua su Crozza, signor Vento. Ma non mi è piaciuto perché comunque non si fa politica quando si parla di canzoni e non si strumentalizza un parterre come Sanremo per fare politica. Secondo me le canzoni sono una cosa, se voi vogliamo parlare di politica ne parliamo, quindi non mi è piaciuto. Ma Crozza fa critica, fa satira politica ogni giorno. Ma lo facesse al suo programma sulla 7, Crozza delle meraviglie, ma non a Sanremo. Sanremo deve far ridere. Ci siamo stufati noi spettatori. Beh, quello faceva ridere in teoria. No, noi ci siamo stufati, gli spettatori vogliono sognare. Signora Vento, non essendo lei Aldo Grasso o Mario Luzzatto Fegiz, vabbè, che c'entra adesso? Perché deve darci il suo autorevole parere sulla comicità di Crozza? Perché question mark? perché io sono una persona, ho una dignità e ho un cervello, e però quindi anche il mio pensiero. Io non riesco a attaccare, cioè quando, quindi vis-à-vis, certo. Mi viene, mi viene da baciarla, capito? Non riesco a essere cattivo. No, vabbè, però poi quando leggo le sue stronzate, tipo le dimissioni del Papa mettono paura, Nostradamus l'aveva predetto. Nostradamus. Ma perché sei... Nostradamus, signora Ventoli, in quel cazzo di castello, perché non imparano l'italiano, i verbi, i nomi delle persone, in quel castello lì? Guarda, nel nostro castello parlano maledetto. Un sacco di lingue, cioè, sì. Cioè sì, la grammatica è stata abolita perché praticamente non serve a niente, serve secondo me invece una genialità, sì. E un linguaggio diverso, oramai gli italiani non si capiscono, certo. Tra di loro, quindi sì. Usare la grammatica e l'italiano, iniziamo a parlare un'altra lingua. Lei dice, eh? Iniziamo la lingua dei Maya, infatti oggi ho la detto, non sono né di destra né di sinistra, sono... aspetta, perché poi ecco, io non posso essere né di destra né di sinistra, le mie idee sono multidirezionali e diagonali, io sono per il cerchio o il triangolo. Vabbè, questa senta, secondo me è la cosa più geniale che qualcuno mi ha mai detto. Stia qui io non posso, siamo a Roma alla sede di Radio 24, stia io qui, non stia posso qui. Essere né di destra né di sinistra, stia qui, che adesso arrivano. Le mie idee sono multidirezionali, sì, sì. E diagonali. Senta qui, io sono per il cerchio o il triangolo, signora. Ecco, ecco che arrivano, senta. Qui la portano via adesso. Qui la portano via. Siamo Radio 24. Io spero che voi diventate geni come me, nel senso che non si può parlare di destra e sinistra. Mi richiamate, le idee sono direzionali e possono essere milioni. Se noi osserviamo un cerchio, ci sono, sì. Varissime diagonali e varissimi intrecci. Quindi dire destra o sinistra è diffamatorio pure per tutti i politici, cioè, secondo me. Anche quando lei frequentava il signor Tocchi, parlava di queste cose? Io non l'ho mai frequentato, non voglio parlare del... di... Era una battuta. Vabbè. Frequentavo Bruce Willis, se lei... Ma lei è stata con Bruce Willis? Sì. Ha avuto una relazione con Bruce, certo. Willis? Certo. Ma veramente? Ah, sì, poi questo è noto, è arcinoto. Ecco, Bruce Willis. Ma com'è dal punto di vista, come dire, erotico Bruce Willis? Ma non ne parlo, posso dire che è un perché bellissimo uomo. Ma veramente, uomo, ci sta coglionando? No, no, si sa, questo è notorio. Ci sta coglionando, non no, è vero? No, assolutamente sì, ma io... Ma la sanno che tutti? Che sono come... brutta? No! No. Questo non ci permette, questo no, anzi, mai. Signor Bruce Willis. Signor Bruce... Domani esce il film di signor Bruce Willis. Dal punto di vista erotico, com'è il signor Bruce Willis? Ma non si preoccupi, guardi, io credo che è un uomo che mi faccia ancora girare la testa, ancora lo devo trovare. Questi ometti con cui sono stata non mi hanno fatto girare la testa. Cioè, sto Bruce Willis a letto male, male non niente. Funziona. Questa, non funziona. Questa è poco, insomma, normale, normale. L'uomo che voglio io ancora non l'ho trovato. Che è un intellettuale, tipo Galli della Loggia, chi immagina? Pane Bianco, signor no, Stefano Folli, ad esempio. Napoleone. Beh, era... Napoleone, signora, però è morto tecnicamente un po' di tempo fa. Sì. No, ma chi si immagina? Sono un uomo come Umberto, un uomo come Umberto Eco, lo vorrebbe come, ad esempio... Ma... Non parliamo di morti, io già. No, è vivo! Dire. Umberto Eco è vivo! No, io posso parlare che comunque, anche se è morto Napoleone, rivive nel mio pensiero e quindi non è morto. La morte non esiste, già l'ho la detto. Morte non no, esiste. La morte Rosa Maria esiste, da Genova, 800-24-0024. C'è stata questa rivelazione clamorosa da signora Vento, che ha detto che Bruce Willis, insomma, alla fine, poi come uomo. Sessualmente non è granché, impotente questo. Per cui, no, non ha detto questo adesso. No, no, non ha detto questo, dai. Ma voi chi votate? Beh, lo diremo perché? Negli ultimi lo diremo negli ultimi giorni, lo diremo negli ultimi giorni, giorni di campagna elettorale, diremo il nostro infrangendo tutte le regole possibili immaginabili sulla par condicio. Stava a sentir Rosa Maria da Genova, buonasera signora Rosa Maria. Buonasera. Dici. Sai che c'era un'amica di mia madre che si chiama Rosa Maria, che parla la bambola, cos'è, circoscritto che... o è scritto il triangolo nel cerchio? Dipende, ci sono vari triangoli. Dipende ma vada, va da quel paese. Ma no, ma perché senta, l'attacca così? No. Grazie, io amo andare nei paesi, mi piacciono molto. Che cosa mi consiglia? Senta, Saturnia sapere... o Manciano? Ma che carina, va, sempre meglio. Scusi, senta, signora... io volevo una... sapere dove tanto fa l'ha messa Pannella. Tu tanto, sai, tu tanto sai... l'ha messa a posto. Signora Giuseppe, Rosa Maria... sai che la signora Vento, sì. La signora Vento è una delle preferite di uno dei più grandi autori televisivi che si chiama Giovanni Benincasa. Salutiamo nostro, Giovanni, nostro grande amico. Che ha appena avuto un figlio. Esatto. E Giovanni Benincasa, che giustamente l'ha messa sotto ad Ammammucari, la metteva sotto un tavolo di vetro, no? La metteva lì sotto Giovanni. Parliamo di 13 anni fa. Ecco. Sì, 13 anni. Giovanni allora... Benincasa mi ha svelato che lei vuole fare un format televisivo. Sì, che si chiamerà è Castello Fatato. Ma perché devi parlare pubblicamente? No, di perché mi interessa moltissimo. Come si chiama questo format? Il Castello Fatato. Come è costruito questo format del Castello Fatato? Qui al Castello Fatato arriva il granchio Cencio. È troppo simpatico. Mi ha portato. Che cos'è il granchio? È arrivato pure il granchio Cencio. Ma sì, ma arriva il tritone Axaur. No, il granchio. Poi è arrivato Ulisse. È arrivato il rombetto, lo squaletto. Siamo in tanti. Ma lei c'è o ci fa? No, io li vedo. Sono con noi. Insomma, possiamo anche chiederla alla guardiana. Dovremmo chiamare la guardiana del castello. Insomma. Lei, se fosse stata nella signora, in quella signora sul palco con Berlusconi, come avrebbe reagito di fronte alle frasi di Berlusconi? Lei quante volte viene? 2-3 volte l'ha vista quella cosa su? Oppure lei nel castello queste cose non arrivano? No, se me lo dici ti posso rispondere. Allora, Berlusconi è al centro di una polemica. Questo sì. Video sta facendo il giro del mondo. Durante una convention di un'azienda, era sul palco lì insieme ad una signora. Esatto. Questa signora, ci ha dovuto Berlusconi, adesso non è che le faglielo sentire, ha detto: ma lei quante volte viene? Ma perché la signora gli aveva c'era risposto male? No, c'era un'allusione sessuale nelle parole di Berlusconi. Ma lei quante volte viene? Si giri, allora si può fare. Lei come avrebbe risposto a Berlusconi? Lei non sa niente, ma nel castello lei non arriva. Guardi, nel castello abbiamo parlato delle dimissioni del Papa, ma non è che possiamo seguire tutto quello che succede nel mondo, anche perché abbiamo da fare, insomma, dobbiamo preparare le zuppe con le zucchette, dobbiamo fare un sacco di cose. Con le zucchette. Comunque, quando uno mi risponde male, li rispondo. Ad esempio, l'altro giorno c'avevo i cani, questa mi ha risposto: ah, tieni i cani legati. Io gli ho risposto: scusi signora, lei da quanto non tromba? Proprio detto così. Anche, questa però, è una buona risposta. Però lei è la stessa cosa, perché non tromba da un sacco di tempo pure lei, signora. Ma sì, ma io infatti però sono molto asceta, ho raggiunto una pace mia interiore. Ma ti credo, vede Axaur lì, vede pirati, vede delle cose. Potrebbe che resistere non per vedono. Quanto tempo? Ancora tanto. Sì, ma l'ultima quando è avvenuta l'ultima volta? A luglio. A luglio. A luglio del 2012? Sì. Luglio 2012, ma sì. Ma lei viene alle volte una volta pazzesca. Ma lei è una bella donna, come fa a resistere così tanto? Ma sto cercando, non si fa più sesso, basta questa mercificazione. Cioè lei del dice sesso. Non la voglio più volantinare via. No, non mi piace, cioè gli uomini devono imparare perché esiste il male, perché uomini vogliono soltanto, capito, passare quell'ora di sesso, basta con questo sesso, bisogna trovare l'amore. Bisogna tornare negli anni 20, quando ancora uno dormiva insieme, si abbracciava, bellissimo. Quando l'atto sessuale era una cosa seria. Brava. Io di far entrare nella mia anima un'altra persona non mi interessa. Questa persona deve avere un'anima speciale, sennò sto sola. Questo è bello. Ma però per scoprirlo bisogna pure passare una fase, no? Di fare una prova. Ma infatti tecnica, io li metto tutti tecnica. Alle prove. Infatti sono sola. Ma perché dopo 7 giorni scappano tutti. Beh, te credo che dopo 7 giorni vanno in bianco. È una cosa pazzesca. E allora volevano solo quello. Ha ragione. Ma però su questo ha ragione. Io però scusi, il signor Bruce Willis non andò allo stesso modo con il signor Bruce. Ma io avevo 20 anni. A 20 anni subito via. A 20 anni dopo 2 ore già stavo con lui. Quindi lì era die hard. Ma a 20 anni si può fare. Su a 35 no. A 2 ore ci ha messo così poco. Sia Bruce Willis per conquistare. Beh sì. Vabbè, era pure Bruce il Willis. Mio fidanzato storico dopo 3 ore. Che era ore. Chi? Dopo era? 3 ore. No, Ataturk? Il marchese. Il marchese fatto del grillo. Marchese del grillo, sì. Ciao Rosa Maria, che voleva dire? Volevo dire che Figge, che alta cultura, che alta etica ha espresso la Madimigella. Senta, io volevo sapere dov'è Pannella. Pannella se n'è andato via. Se n'è andato. Beh, gli mando il messaggio. Dica che siamo stufi. Di che cosa? Di lui. Ci ha preso in giro. Ha fatto più male che bene. Che siamo stufi pure dei suoi cos'è che fa i digiuni. E spero tanto che in una di questi ci lasci la pelle così. Ma no! No! Rosa Maria, no! Non ma, è uno che, ma che cattiverie gratuite, guardi. Dai, vada al castello, vada. No, non è ammessa questa signora al castello. Dai. Verrà cacciata fuori con lanciafiamme. E anche a cacci nel sedere. Ecco. Sei una zanzara. Un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà, questo è il rimedio per il Munafò. Signor Munafò. Contestatore di Crozza. Assessore. Sì, ma sei stato maleducato. Maleducato. Io ho detto quello che pensavo. Cioè, sei stato maleducato. La gente può chiamare te e mandarmi a quel paese. Io non posso dire che hai detto subito che ha detto delle stronzate. Ho detto subito, perché non si fanno giri di parole, ho capito? Ma, sì, ma subito così. E subito poi gli dicevi: scusi, lei, caro ex assessore socialista, peraltro. Sì, no, ma questo non cambia. Cioè, può essere anche dei radicali, ma se vuoi dice una stupidaggine. Tanto non risponde più, su. Bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Abbiamo in diretta con noi la mitica Flavia Vento. Flavia Vento, buonasera, Sole, buonasera. Secondo gli utenti di Twitter, è venuta qua direttamente, ecco, dal suo castello. Ma come si viene da qui dal castello? Sì, qui col taxi, come vuoi? No, no, abbiamo col preso calesse, ma abbiamo, no, chi, no, poi abbiamo preso, perché abbiamo il cavallo, ma che alato, lei parla come hotel, ma perché, cioè, abbiamo, abbiamo, cioè, abbiamo chi, abbiamo... lei bellissima, bionda, carina, simpatica, è salita su un taxi, scusi, ex fidanzata di Bruce Willis, con cui ha, comunque abbiamo preso questo cavallo alato e siamo arrivati fino a qui. Ma cavallo nessun alato. Cavallo alato. Cristian da Vicenza, buonasera. Signor Cristian, dica. Buonasera, Cruciani. Vada. Volevo dire che stimo molto la Zanzara e chiedere, sì, chi è Parenzo. Chi, sì, è lei? Cioè, perché questo è il problema. Ma chi è Parenzo? È il co-conduttore della Zanzara insieme a me. Qual è il punto? Parenzo è quello, è un liberale che non lascia parlare uno che stava intervenendo e spiegando delle cose, o sbaglio? Ma ho detto, no, ma io su questo le do ragione, perché secondo me ha sbagliato. Con un po' di aggressività. Fino a un anno fa chi se lo inculava, Parenzo? Forse. Come, scusi? Chi se lo inculava, Parenzo, fino a un anno fa? Ma infatti, ma va che questi termini, scusi, ma, no, ma da dove viene? Da Torpigna? Perché per lei non si possono usare i termini qualche anno fa, no? Cioè, lei si è scandalizzata per la parola qualche anno fa. No, scusi, qual è il problema? Non ho capito, Cristian, qual è il problema? L'aggressione assurda che secondo me ha fatto il signor Munafò. Ho capito, ha detto in faccia, in faccia a Munafò quello che pensa. Poi, secondo me... Certo, benissimo. Quando poi il signor Munafò ha detto quello che è stato e quello che ha fatto nella sua vita... lavorativa, o lui lo pigliava nulla. Per il culo, lui lo pigliava, per ma il culo. Mi diceva, come dici, io sono assessore, ma lo dicevo non in disprezzo alla sua carica, ma siccome lui rispondeva a una mia obiezione dicendo ma lei non sa, io ho fatto anche l'assessore, dico, ma anche l'assessore ha fatto, che c'entra, per me può fare qualsiasi professione, non è, vabbè, allora che cosa possiamo concludere su Parenzo? Era uno stupido e ha espresso un'idea perché c'ha un cervello e ha espresso la sua idea ieri sera. Vabbè, d'accordo, grazie Claudio. Claudio da... nella sua vita qualcosa ha fatto di buono anche. Va bene, di sì, buono, sì, non lo so, ma io accetto le critiche, a differenza sua accetto che la gente mi mandi a quel paese perché fa parte del format di questa trasmissione. Comunque c'è una notizia: Marco Pannella ha appena twittato che alle 23:35 su Radio Radicale replicherà al dibattito iperculturale della Zanzara di stasera con Cruciani e Parenzo. Ma perché non gli hai fatto l'imitazione qui? Antonio da Roma, buonasera Antonio. Pronto? Vabbè. Dica. Dunque, io ho chiamato perché volevo dire due cose. Sì. La prima è il famoso discorso lì del Green Power, dove appunto secondo me c'è stato un atteggiamento di Berlusconi che insomma è inqualificabile. Però va messa in luce un'altra cosa. Ha fatto, però io devo dire la verità, Berlusconi, adesso bisogna dire una cosa, ha fatto una battuta a quella ragazza, a quella signora, a quella madre di famiglia. Beh, che battuta, ha tenuto banco per Ha tenuto banco con le solite cose, quante volte viene, 2-3 volte, poi a un certo punto ha detto si volti, vabbè allora si può fare, eccetera, eccetera. Ha fatto una berlusconata. Allora, delle due l'una, o uno reagisce subito, non è che a scoppio ritardato il giorno dopo uno dice io sono ero imbarazzata. No, perché, non ho capito, ma io perché la cosa poi non è più credibile questo, a un certo punto se uno dice è imbarazzato. Voglio vedere la cosa sotto un altro aspetto. Ma io dico, ma ci rendiamo conto del ridicolo? Perché insomma, adesso con tutto il rispetto, ma una persona è quella che è, che si mette a tenere banco, a imporre un suo presunto senso dell'humor a chi come per esempio me la cosa può dare solo fastidio, sì. Mi sembra insomma un comportamento non tanto... Io non ho capito, le ha dato fastidio sì o no? Le ha dato fastidio sì o no? Beh, che fastidio lo dia penso che sia normale, se a uno non glielo dà... Ma lei che fastidio le ha dato? Non ho capito, che fastidio le ha dato Berlusconi che ha fatto degli apprezzamenti a quella signora dicendo quante volte ma viene? Ma io che devo stare a sentire quelle cazzate, mi scusi. Ma non ho capito, mica obbligata a sentire, mica stava là lei... No, va bene, questo è un discorso, però il punto fondamentale... Ma le ha dato fastidio perché l'ha trovato volgare? Scusi, signora Vento, adesso ha saputo di cosa si tratta. Berlusconi è stato volgare nei confronti di quella donna, sì o no? Ma certo. Secondo me no, perché comunque è una battuta e ridiamo. Ma sempre attaccato bene. Ma sei stato due ore lì a rinfocolare, a rintuzzare il discorso. Però il punto non è questo, è il ridicolo in cui cade quest'uomo. Vabbè, grazie Antonio, grazie. Paolo Giglioli, Chiara da Roma. Paolo Giglioli scrive su Twitter, Flavia Ventasole, Flavia Ventasole va detto che ha una voce molto bella. Meno male. È anche un po' ingrassata, grazie, però sole, diciamo Flavia. No. A me piace mangiare, odio... Al castello si mangia, mi sa. Sì, si mangia tanto. Se mangia, salutiamo la guardiana! Ma chi è la guardiana? Che cosa è successo? Dalle foto che è... Mi sembra un po' ingrassato, no? Perché sono ingrassata, signora. Sono ingrassata. No, no, è un po' rotondetta, signora Flavia Vento. No, no, vabbè, comunque, ma perché chiara, così? Ma io... Meglio grassi che magri, anzi, lanciamo un messaggio contro le persone che non mangiano anoressiche. Meglio avere una 44 che essere una 38. Mangiate e godete della vita. Non so, però, questo... poi... Chiara, dica! Invece, no, la vedo che sta bene. Sicuramente c'è da un po' servire la gleba, eh? In che senso? Guardi, ma innanzitutto... a testa alta, come dice Elio, le storie tese. Servi della gleba a testa alta. Innanzitutto si deve togliere dal viva voce, eccetera, perché non capiamo nulla. Si metta, prende la cornetta, il telefonino, quello che è. Cornetta e telefonino, perfetto. Chiara, non sentiamo col viva voce, non ha capito bene. Qui non stiamo a casa sua, cioè non stiamo ai comodi suoi. O prende il telefono in modo normale oppure non sentiamo, ha capito o no? Malissimo, evidentemente non sentite. Ma lei non sta col telefonino, lei sta in un posto, o in un posto in cui non si sente, oppure il collegamento non va bene, oppure terza cosa, lei sta con l'auricolare. Non sta né con l'auricolare né col telefonino messo male, mi dispiace. Vabbè, allora? Allora vi volevo dire che siete diventati un po' servite la gleb ultimamente. Vabbè, sì, però ci piace così, ci piace essere frustati. Qual è il problema? Mi piacete tantissimo, però veramente mandatele a lavorare le persone, perché la gente qua si fa un culo così tutto il giorno del castello della signora Vento, con tutto il bene ci vediamo tanto, ma non ce ne posso fregare nemmeno. Ma di che cosa? Di che cosa? Del castello della signora Vento. Ma a lei non gliene può fregare di meno. Guardi, se vuole la invito, vuole venire a mangiare una pizza al castello? Lavora veramente. Deve lavorare. Quando c'è una pausa. Mica lavorerà tutto il giorno, no? Ci avrà una pausa. Magari. Non ha pause, lavora 24 ore lei, Chiara. Adesso tutti lavorano 24 ore, su, non dica stupidaggini. Vi dedico servi della gleba, vi voglio bene. Servi della gleba. A testa alta, sempre. Mauro da Vicenza, buonasera, signor Mauro. C'è la canzone di Elio, no? Servi della gleba. Senta, testa... lei prima, quando un ascoltatore è intervenuto e ha detto che c'è un sacco di gente che sta male, lei ha risposto chi se ne frega. Ma sì, quello ha sbagliato. No, ma io non ho detto sì, piacerebbe... hai detto una cosa molto grave. Sì, era riferito al discorso di Villaggio. Lei a un certo punto ha detto chi se ne frega se c'è un sacco di gente che sta no, male. No, ma non allora, volevo dire che chi se ne frega che c'è un sacco di gente. Lei ma l'ha detto, scusi. Sono stufo di fare sono stufo delle persone che chiamano o dei politici che iniziano un discorso e dicono c'è un sacco di gente che sta male, c'è l'Italia alla fame, oggi un politico ha detto c'è la gente che muore di fame. È vero. Ma sono, la Caritas, sono stufo, allora, sono stufo di questi discorsi. Ma lei discorsi. Non può dire chi se ne frega. Lei non può dire chi se ne frega. No, lei ma non chi se ne frega della gente che sta male. C'è un sacco di gente che è in difficoltà, è vero, non arriva a fine mese, che ha perso il ma lavoro, io non ho detto che non riesce a pagare Mauro. La scuola dei figli, che ma si non... sono consumati tutti i risparmi che c'hanno. Mauro, c'è un sacco di gente che è messa così. Stare male vuol dire questo. Certo, quello che io le ho fatto, certo. L'elenco Mauro, che le ho fatto. Certo, lei ha ragione, ma io non volevo infatti dire chi se ne frega di quelle persone. Perché lei è uno stronzo se dice che se ne frega. E vabbè, sarò pure uno stronzo. Bravo, io mi riferivo, caro ragione, Mauro, su questo ha ragione. E mi prendo la mia quota di stronzo. Mi riferivo non alle singole persone che stanno male. Non dico cinismo, me ne frego. Cinismo puro. Stai calmo, stai tranquillo. Cinismo. Comando io. Non dico non dico le persone che stanno male me ne frego. Io volevo semplicemente dire me ne frego di quelli che ogni volta in ogni discorso, in particolare i politici, ma non solo i politici, iniziano a parlare e dicono c'è un sacco di gente che sta male, l'Italia allo stremo. Ma noi dovremmo ogni giorno raccontare queste storie. Ogni caro giorno Mauro, dovremmo questi raccontare. Discorsi sono vuoti. Io in questo senso ho detto me ne frego, non delle persone che stanno male, figuriamoci. Allora Mauro? Ma lo dica, lei non lo dice. Ma lei non lo dice e si attira l'ira e l'odio di tutti quelli che in questo momento non riescono ad arrivare a fine mese. Mi attirerò l'odio. Purtroppo sono sempre di più. Pazienza. Grazie, grazie. Come Mauro, pazienza? Che... Ma come pazienza, cazzo? Ma come pazienza? Posso ma dire che... una cosa, Mauro? Sì, sentiamo adesso. Allora, qua ci sono i parlamentari che prendono 12.000 euro al mese. Allora, sì, la vera rivoluzione la dobbiamo fare davanti al Parlamento. Non solo con queste parole. Finché ci sono... Non so manco quanti sono i parlamentari. 300? Allora, bisogna diminuirli. Quelli hanno la pensione a vita. Perché uno fa il deputato per 4 anni e poi si prende 6.000 euro al mese la pensione a vita quando il moratore, poveraccio, lavora 40 anni e la pensione non ce l'ha. Allora io posso fare la scema quanto mi pare, poi però se mi arrabbio io, perché qua siamo tutti a parlare di politica quando poi alla fine la gente veramente muore di fame e sono io la prima a vedere bambini che non c'hanno, non possono mangiare un pezzo di sogliola quando c'è sta il parlamentare che sta 4 anni. E quante deputate ci sono in Parlamento che stanno lì, che hanno fatto le troie, scusate, guadagnano 6.000 euro la pensione. Allora la rivoluzione, invece di andare a votare, facciamo la rivoluzione domani in Parlamento. Ma come la fai? Applausi, applausi al Castello, applausi alla signora Flavia Ventosole. Chi ci conduce? Sole, la luce. Chi è il nostro mito? Flavio Sole, Flavia Sole. Siamo tutti servi della gleba. Cornuto. Giacomina, provincia di Olbia. Qui c'è la ribellione delle donne contro Flavia Vento, stupendo. Giacomina, dica. Servi della gleba, senti qua. Giacomina, dica. Io non sono contro Flavia Vento e contro nessuno, ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ora, le ultime due frasi, se sono di... Ma penso che siano idee sue, sono giustissime. Beh, idee sue, l'ha detta lei, io l'ho detta io. Sì, sì, no, per carità. Innanzitutto, io, se non sbaglio, la signora Vento dovrebbe essere candidata col PD. Ma quale PD? Ma lei non ha capito? Ma no, ma che candidata col PD? Ma quando mai? Con Rutelli allora, una volta, poi adesso, prima poi è diventata simpatizzante di Grillo, ha rotto. Ma lei chi vota, signora Vento? No, ma per me ognuno è libero di simpatizzare per chi vuole. L'importante non sia un berlusconiano, perché invece di criticare il comico Crozza, c'è un comico che va in giro da 20 anni per il mondo, siamo derisi. Ora, tanto di rispetto per il premier, per il presidente Berlusconi, è tempo che se ne sia a casa. Vabbè. Per quanto riguarda la signora Vento, che è una bella ragazza, che ammiro, cioè vorrei farle capire che la vita reale non è un castello fatato, perché ci sono i veri problemi. Benissimo, ha fatto il proclama della povera gente, vabbè, chi mangia chi no. Sì. Guardi che pure io ho problemi, non è che solo lei ce l'ha. Ha problemi a mangiare? No, guardi, posso dirle una cosa, i miei genitori mi hanno cresciuto troppo nell'aggio, poi a un certo punto mi hanno dato un bel calcio al culo, quindi pure io ho un sacco di problemi. Un calcio così, boom! No, sì. Cioè lei viene, lei viene da una famiglia ricca? Sì, e poi a un certo punto ha detto, cosa ciao, arrangio. Cosa fa suo padre, notaio? Guarda, non voglio parlare dei miei genitori, sono arrabbiata pure con loro. Quindi no, perché non gli danno più soldi. No, non è quello. Io ho sempre guadagnato, ho lavorato. Io comunque lavoro da 13 anni, ho fatto un sacco di cavolate in televisione, libero, ma io ho sempre bellissimo avuto la dignità di non stare con nessuno per lavorare, e questo c'è da dirlo. E ho sempre lavorato per mantenermi. Però come uno. E comunque anch'io ho sofferto della crisi, quindi anche io le posso dire che ho salvato 7 cani dalla strada che devo mantenere, devo pagare l'affitto, pure io ho dei problemi, perché io non mi sposo il vecchio ricco come fanno tante, o sta col ricchetto che gli comprano la borsetta firmata. Io sono diversa, io preferisco fare la barbona piuttosto che finire con l'uomo ricco, con l'uomo ricco che paga tutto, e che ci sono tutte queste quattro imbecilli che se lo sposano soltanto per avere la casetta bella, la borsetta firmata. Io sono contro le grandi firme. Ma in Parlamento quante ci sono? Perché Feltri ha detto che ci sono 10 mignotte in Parlamento, signor Feltri. Non lo so, secondo me ce ne stanno molte di più. Molte di più addirittura? Sì, anche perché insomma è pieno di donne che per la borsetta di Chanel pagherebbero non so che cosa. Io no, almeno io mi vesto dai mercati, mi piace andare al mercato, però non sono di sinistra né di destra. Com'è questa qua? Dai, fate vincere la sinistra. Flavia Ventosole. Com'era? Dai, fate vincere la sinistra, così finiremo nel baratro più assoluto. Berlusconi almeno è vero, ma, quello... la sinistra ha dato sempre della giattezza, almeno se proprio lei... Stia calma, un attimo. Sì, ma la sinistra D'Alema faceva quello di sinistra e c'aveva la barca di 25 metri. Legga qua, legga qua. Se l'è pagata con i soldi suoi. Vabbè. Com'era? Com'è questo aforisma della Ventosole? Dai, fate... Dai, fate vincere la sinistra, così finiremo nel baratro più assoluto. Berlusconi, almeno è vero, quelli di sinistra si scopano tutte di nascosto. Questa gli aforismi di Flavia Vento. È una verità pazzesca. È una verità pazzesca. Allora, gli scandali di Berlusconi. Allora, tutti quelli di sinistra, secondo me, hanno rosicato perché le donne, poveracci, non ce l'hanno, e comunque quelli di sinistra o vanno, vabbè, non voglio le dirlo, analisi di Flavia secondo Vento. Me lo fanno, guarda, ci sono tanti di sinistra che io conosco che sono state con tante starlette quando hanno governato, sì? Io lo so, ma chi ti faccia un nome, non ma nomi, non può venire qui dal castello, hanno fatto le stesse cose, quindi secondo me una persona non va valutata per chi, capito, arriva dal castello con Barbara, provincia tattoo. Di Vicenza, signora Barbara, mi chiama serpente tattoo. Vada. Io volevo fare il mio intervento su Giannino. Io ero rimasta fortemente impressionata dalla figura di Giannino, soprattutto poi rispetto a quelli che sono i politici che abbiamo, insomma, lì allora? Davanti. Insomma. E quindi cosa succede? Succede che io, fortemente interessata a votarlo, sono andata a vedermi purtroppo la presentazione dei suoi rappresentanti di Verona, Vicenza e del Veneto. E, allora? E in quella serata io ho avuto l'impressione di incontrare un sacco di ex, nel senso non miei, come? Giannino ma dice, ex, Giannino dice che non accetta nessuno. Ma Giannino dice che non accetta nessuno nel partito, nessun ex, invece? E invece io ho trovato delle persone che mi hanno ricordato tantissimo ex di altri partiti, non solo, ma nel momento in cui hanno detto quello che poteva essere il loro programma ed era alquanto misero, soprattutto la parola chiave per loro era politica etica. Vabbè, allora Barbara, lei non mi ha detto una cosa concreta, perché non le sono piaciuti questi rappresentanti di Giannino, cara perché Barbara? Alla perché alla fine hanno festeggiato con tanto di spumante e champagne. Avranno festeggiato con lo spumante e lo champagne, ma che vuol dire? E dov'è il problema? Io ero andata per sentire chi erano, che cosa avrebbero fatto nel momento in cui io allora avrei votati, e io ho sentito delle persone povere di idee e povere di parole. Vabbè, e d'accordo, mi hanno ricordato tantissimo gli altri politici. Non le sono piaciuti, benissimo. Francesco della provincia di Bergamo, buonasera signor Francesco, dica. Veloce. Buonasera Cruciani. Vada. Volevo dire solamente una cosa, parlando di Sanremo e del caos che hanno fatto ieri in platea. Secondo me lei ieri prima ha detto una grossa stronzata, nel senso che se uno paga il biglietto lei ha detto che può andare a contestare, allora dovremmo farlo al cinema, vado a vedere un film, non mi piace, contesto, rompi quello che tutti. Che c'entra? Il cinema non può contestare contro nessuno, Francesco, abbia pazienza, al cinema al massimo esce e se ne va. E a teatro è la stessa cosa, no? Ma che vuol dire? Ma quello è uno spettacolo, uno può... Voglio dire, se uno non... Se uno... Andare a contestare, certo, civilmente, senza interrompere, senza rompere le balle. Evidentemente, qualcosa, vuol dire, quando il gruppo è aumentato, si è creata una situazione spiacevole. È evidente, però, uno può tranquillamente alzarsi e dire, esprimere il proprio disappunto. Non è un problema. Cioè, uno ha il diritto di entrare, pagare il biglietto e anche contestare in maniera comunque civile. Comunque, forza Giannino. Ciao. Ciao. Bravo, Alberto bravo. Da Pavia, buonasera Alberto. Buonasera, sì. Ho 19 anni, sono di Pavia e sono leghista. Sì, vabbè, pazienza, non è che uno deve confessare di essere leghista per forza, o di essere democristiano, o di essere del Partito Democratico. Comunque vabbè, allora? Volevo dire che secondo me viene dipinto, soprattutto adesso, che ha comunque una buona percentuale di voti, come un politico che vuole proporre qualcosa. Però secondo me la vera natura di Grillo, che non è secondo me ma la verità, la vera natura di Grillo è quella di essere un comico, e quindi da comico ha detto la cosa originale del giorno, lei Alberto, è un comico più che un politico, non mi pare particolarmente originale, diciamo, no, non è quello che voglio dire, sto arrivando, e che vuole dire? Al punto che in realtà i voti arrivi. Che ha preso non li ha presi proponendo qualcosa di vero, ma li ha preso ammaliando le folle scontente. Ammaliando è... le folle scontente. Beh, sì, cioè, ti credo, certo, raduna molte persone scontente della quello politica. Quello fa. Non è un modo di fare politica e di proporsi alle elezioni. Con tutta la crisi politica che c'è adesso, nonostante questo, non può, secondo me, non è il modo di fare politica. Non è il modo di fare politica. Va bene. Claudio da Milano, buonasera, Claudio. Sì, buonasera. Sì. Allora, io un po' che mi tenete al telefono, mannaggia a voi, i bambini che devo mangiare. Senta. Ma quanti bambini ha lei? Quanti bambini? No, due cuccioli. Li porti al castello. Li porti al castello della signora Vento. Se fredda la pizza, come dice la guardiana. Ma sono piccolini, a quest'ora mangiano, poi vanno a letto. Lì al castello sono gli animali, l'orso tattucchi. Al castello ci sono i cagnolini, gli scoiattoli, c'è Dumbo, c'è Peter Pan, c'è il topolino, si divertono. Che affollamento. No, faccio la festa, li porterò alla mia festa che faccio nel mio locale sabato, li farò divertire in casa. Allora? Niente, io sono un piccolo imprenditore di Milano, no? Volevo riferire al discorso che ha fatto la Sant'Anchè sulle donne che si buttano i piedi. Si rendono disponibili, dice la Sant'Anchè. Ecco, a lei non sarebbe mai accaduto. Ha fatto una critica molto pesante a quella signora là che era sul palco di Berlusconi. Allora dico, io ho questa attività che grazie a tutto cambiare in tempo il mio corso di amministrazione, ho mollato le divizie. Sì, però lo dica velocemente, sto, Claudio, sennò il tempo finisce. Ho 14 dipendenti, di cui sì, 12 donne. 12 donne. Ho 48 anni, moglie e figli. E allora... ogni tanto mi dico, avessi avuto 20 anni in meno, magari avrei azzardato con le mie dipendenze. Ma mica, mica è vecchio, lei ha quasi la mia età, un po' più grande di me. È una questione di stile, è diverso. Di stile, cioè lei sta dicendo, lei ha stile, lei ha stile. No, a una certa età mi segua, a una certa età. Un uomo dovrebbe essere superiore a queste cose. Ce lo famoso. Vabbè, critica famiglia. Berlusconi. No. Grazie a Flavio Avento. Grazie. Quando... Applausi a Flavio Avento. Applausi. Grazie a tutti, vi voglio bene. Ci vediamo presto. Viva il castello! E viva il castello, venitemi a trovare. Facciamo. Ma se non sappiamo dov'è sto castello. Ma dov'è a domani 18:30, che ne so dove, non esiste. Ma non esiste. Radio 24. La passione si sente.